raccontarsi, sempre braccio. Ma poi quando si deve parlare di sé, chiarire prima di tutto noi stessi chi siamo, definire i nostri problemi, mettere a fuoco i nostri desideri, è tutto un altro discorso. Eppure qualche anno fa, un piccolo gruppo, peraltro molto intelligente, che aveva sentito delle lezioni che avevo tenuto sull'importanza e i vari modi di comunicare, ha sentito bisogno di riunirsi con regolarità, due volte al mese, per raccontarsi, per recuperare la sua storia e un passato spesso sconosciuto anche ai propri cari. Inizialmente si è cercato, peraltro, riuscendoci, di stabilire un rapporto di fiducia, grazie, e di stima reciproca, consapevoli che quello che rende migliore una persona e la società sono le piccole azioni del quotidiano, la partecipazione, il rispetto, il desiderio di ascoltare, l'abitudine di accettare l'altro e il suo mondo. Così a poco si è passati da un raccontarsi un po' generico a un bisogno di mettere a parte dei propri sentimenti, degli accadimenti dolorosi o felici che fanno parte del nostro quotidiano, tutto il gruppo. Noi ci soffermiamo, dopo averli letti, a commentare i vari scritti, e così abbiamo scoperto che una gioia, un lutto, una malattia, una qualunque esperienza singola diventano patrimonio comune e necessità e piacere di ritrovarsi alla prossima puntata. Oggi, volutamente, abbiamo scelto un tema particolare, la guerra, così come è rimasta nei nostri ricordi. Domani è il giorno. Amen. Oggi, volutamente, abbiamo scelto un tema particolare, la guerra, così come è rimasta nei nostri ricordi. Domani è il giorno della memoria. Per me si tratta di quel passato che non vuole, non deve passare, di un passato che condiziona ancora il nostro presente. Un passato rimosso diventa facilmente una maledizione irripetibile. Il passato, si voglia o no, resta sempre un pezzo del nostro mondo e la Shoah fa parte della nostra storia. Da sempre ho fatto mio un pensiero di Simon Wiesenthal. Lui dice: quando andremo all'altro mondo incontreremo milioni di ebrei morti nei campi di sterminio e se ci chiederanno che cosa hai fatto tu, tu potrai rispondere: io, il gioielliere. Un altro dirà: io ho costruito case. Ma io dirò: non vi ho mai dimenticato. Passiamo a voi che siete i veri interpreti di questa serata e cominciamo con il Tonio Schifiniti. Già ringraziata, ma era probabilmente non aveva sentito il nostro ringraziamento affettuoso per la coglienza. Volevo intanto ringraziare la professoressa Marta Chiusole Sinoni che accoglie sempre i nostri inviti e siamo contentissimi di conoscere ogni anno la produzione del gruppo dell'autobiografia del ricordo che viene da lei coordinato. Questa serata si inserisce in una serie di serate che appunto la Biblioteca Provinciale Claudio Augusta organizza da anni all'insegna della memorialistica, con la collaborazione del gruppo della professoressa De Chiusole, con la collaborazione diretta di parecchi cittadini che ci consegnano i loro ricordi oppure i memoriali, cioè delle stesure di diari postumi, tra virgolette, o a posteriori, cioè quando si scava di nuovo nella memoria e si vuole consegnare così un ricordo o semplicemente non dimenticarlo per se stessi in prima persona, perché a volte anche l'operazione dell'autobiografia è una soddisfazione, una riscoperta di se stessi in una maniera del tutto nuova e a volte anche inattesa. Per noi come biblioteca è importante questo passaggio perché soprattutto in una biblioteca come la nostra che lavora sul territorio, quando un cittadino decide di consegnarci i propri ricordi ci aiuta a ricostruire una parte della nostra storia, una parte molto più personale, molto più intima, ma che nello stesso tempo è utile anche alla ricerca storica. Lo abbiamo visto in questi anni, dove all'inizio si era partiti un po' in sordina, perché la biblioteca nel 2001 ha mosso i primi passi, ma in questa maniera è riuscita anche a sdoganare, tra virgolette, una sorta di pudore che c'era forse nella comunità nostra di ricordare il passato, un passato che non è sempre facile da leggere, non è sempre facile da condividere, ma forse anche perché si è iniziato questa operazione siamo potuti arrivare anche ad una conoscenza reciproca un po' meno difficile. I risultati dell'ultimo anno sono anche sotto gli occhi di tutti, ci sono state delle svolte nella nostra città non indifferenti di condivisione della storia. Per cui ecco, mi fa piacere in questo contesto, che è un contesto molto più così accogliente come Centro Trevi, poter andare avanti con il nostro lavoro di memorialistica. Invito sempre tutti i cittadini anche a voler collaborare con, direttamente anche con la biblioteca, laddove ci sono delle fotografie oppure dei diari che vogliono essere anche solo parzialmente così pubblicati. La biblioteca sta facendo proprio questo. Abbiamo anche con l'associazione AMPI, quindi non solo con l'UPAD, ma anche con l'AMPI, per esempio l'anno scorso ho pubblicato un libro dedicato alla memoria dei cittadini, che in particolare di Bruno Bertoldi, che è stato uno dei superstiti di Cefalonia ancora in vita e ancora con dei ricordi molto vivaci. Quest'anno sarà la volta di Bruno Zitto e di Bruno Gemmi, altri due così superstiti della Seconda Guerra Mondiale, con le loro fotografie. Insomma, andremo avanti, vorremmo dedicarlo anche alle donne, e quindi mando avanti, lancio questo appello, perché il nostro impegno sarà quello di proseguire anche con questi quaderni della biblioteca. Vi ringrazio di essere qui, vi ringrazio di aver veramente voluto accettare il nostro invito a presentare i vostri lavori, e buona fortuna a Lupata per questo progetto. Grazie. Affettuosa, per cui noi con lei ci sentiamo sempre in un salotto. Grazie di tutto, proprio. Grazie. Comincia Antonio Stipiliti. Tonino, tocca a te. Opla. Vuoi sederti? No. Io dopo poter. La guerra in meridione è finita nel 1944. Io sono nato l'anno dopo. Durante la mia crescita convivo con i miei genitori, i miei fratelli, con voci, visi, i loro affanni e le altre cose che vedo e come le avessi viste da sempre. Donne e uomini a lutto per i loro cari caduti in guerra. Io da più grande, dalla gente sento raccontare la guerra da loro vissuta e scopro il perché delle case diroccate, buche scavate dalle bombe da aerei, residui bellici, bossole di moschetti, elmetti tedeschi, vocaboli rimasti nella mente alle persone da voci di soldati tedeschi, americani, inglesi, abissini. Nomi di contadini morti dalle bombe zappando la terra, foto appese alle pareti nella sola stanza da letto di miei parenti morti, la causa della guerra, la divisa da guardia di finanza in congedo di mio padre, i gambani, così li chiamava lui. Consumate più volte e più volte riparati, indossati per lavorare nella cava di pietre e nella campagna. Per anni ho ascoltato le stesse storie, le ho nella memoria come poesie per tutti i giorni. Quello che c'era non c'è più, delle cose rimaste e delle nuove mi è stato insegnato a non sprecare l'utile. Una piazza apprende lezioni di vita da un gruppo di uomini che ha combattuto, il quale la guerra non l'avrebbe voluta, ma la madre patria li ha chiamati e loro hanno risposto. Tra loro c'è chi è benevolo al defunto Duce, giustificando in ogni mossa sbagliata, erigendolo sul piedestallo quando era nel giusto. Contrari sono i partigiani, i quali hanno combattuto per la stessa patria, portando nel cuore un colore diverso. Non giudico perché non sono in grado di farlo per la mia giovane età. Non devo fare altro che ascoltare. La signora vicina di casa, a 10 anni dalla partenza del figlio Francesco per la Russia, mandato per combattere, lo aspetta come se fosse partito ieri. Ripete, i 20 anni del figlio prima della partenza e 10 lontano da casa, sospettando intimamente e amaramente non rivederlo più. Il maestro di terza elementare, ogni fine lezioni, si faceva uscire dalla classe marciando. Il maestro Zappone porta i baffoni, zoppico vistosamente per una ferita di guerra, così dicono. In quarta elementare un altro maestro spesso ci fa cantare la leggenda del piano. Ricordo il maestro di quinta con la verga della punizione, come impugnarsi un fucile, non fa volare una mosca, quando il direttore della scuola elementare ogni giorno, entrati in classe, ci dà il buongiorno dell'altoparlante posto in alto sulla parete con l'inno di Mameli. Con il passare degli anni si sente parlare sempre di meno del dopoguerra. Grazie. Se per cortesia mi leggi Ricordi di guerra di Anna Maria Gasperini, che sta poco bene, non ha potuto venire. Ricordi di guerra di Anna Maria Gasperini. Della guerra, pur essendo passati tanti anni, ho ancora moltissimi ricordi, e così vivi che potrei benissimo pubblicarne un libro che poi, naturalmente, nessuno leggerebbe. Infatti è stato scritto e si sta scrivendo ancora adesso tanto su questo tema che non interessa a giovani, mentre coloro che hanno vissuto l'ultimo conflitto mondiale o non ci sono più, oppure non vogliono più sentirne parlare. Ciò nonostante, voglio ricordare in primis il mio mai saziato appetito. Vivevamo a Milano, quindi niente contadini con i quali barattare eventualmente qualche cosa, oppure comprare alla borsa nera. Ero nell'età dello sviluppo e fortemente anemica, tanto che ricevetti delle tessere annonarie supplementari, che però ad un certo momento andarono a finire nel cestino della carta straccia, assieme a tutte le altre tessere annonarie, perché tanto con quelle non si riceveva più nulla. Contavano soltanto più le conoscenze e raccomandazioni, nonché tanti soldi per poter almeno in parte saziarci. Ricordo poi il primo grande bombardamento su Milano. Mia madre, mia sorella ed io eravamo partiti pochi giorni prima per Borgo Taro, per le vacanze estive. Mio papà ci raggiunse la settimana successiva, con tutte le parti scoperte del corpo che evidenziavano un forte e fastidioso eritema causato dal fosforo sprigionatosi da una bomba incendiaria caduta in una soffitta della nostra casa, provocando un inizio di incendio fortunatamente spento subito dagli inquilini. Ricordo pure le incursioni aeree varie, ma in particolare quelle degli americani, che si limitavano, oppure avrebbero dovuto limitarsi, ai soli obiettivi bellici. Andavo con altri inquilini su un terrazzino posto sul tetto della casa e da lì assistevamo al lancio del bengala, che individuavamo i posti da colpire. E quindi allo scoppio delle bombe che culminava, a seconda se erano dirompenti o incendiarie, in grandi crolli o incendi. E come non ricordare il freddo patito sia fuori che dentro casa? Le temperature invernali a quell'epoca erano molto più basse di quelle di oggi. A ciò si aggiungeva l'umidità, tipica di Milano, in cui i canali erano allora tutti scoperti. Il nostro grande appartamento era riscaldato, per modo di dire, in parte da una stufa a segatura, quando riuscivamo a trovarla, ed in parte da una stufetta parabolica che cominciava a funzionare solo dopo le 5 del mattino, fino alle ore 17. Anche la scuola era gelata, per cui quando tornavamo a casa ci cacciavamo presto nel letto che mia madre aveva provveduto a stiepidire con le borse dell'acqua calda. L'erogazione del gas da cucina era infatti quasi sempre regolare. Ricordo infine il mio figlioccio Guerrino Mizzano, soldato non mi ricordo su quale fronte, che aveva trovato nella sciarpa da me confezionata a scuola il biglietto di auguri e indirizzo che dovevamo accludere ai nostri lavori. Mi venne a trovare a guerra finita, così come mi aveva promesso, prima di essere internato in un lager nazista. Poi si sposò ed ebbe una bimba, a cui diede il mio nome, per ringraziarmi delle letterine che gli scrivevo e che prima o poi riuscivano ad essergli recapitate prima che venisse fatto prigioniero. Termino qui con i miei ricordi, che sono veramente tanti, anche qualcuno bello, come quando alla domenica ci incontravamo con dei nostri vicini per giocare al mercante in fiera o a tombola. Se poi tutto andava bene, ma proprio bene, c'era pure una piccola merenda realizzata a forze unite fra mia madre ed i nostri vicini. È proprio vero che c'è sempre posto per piccoli miracoli. Poi arrivò la fine della guerra e con essa nuovi ricordi, ma questo è un altro e più felice capitolo. È diventata la nostra lettrice ufficiale. Dino Marco. C'è qualcuno che si porta la storia. Prego. No, io dicevo che si è portato la figlia lettrice perché... Io sarei il titolare della storia, non so come sono gli occhi in crisi, ho preso. E anche le emozioni... Bravo. La mia guerra, 1940-1945. Nel 1940, quando scoppiò la guerra, era un ragazzino di 8 anni che delle cose dei grandi non capiva niente. La guerra, il nemico, erano parole enfatizzate dalla propaganda che cercava di riempirti la testa di patriottismo e di entusiasmo. Del resto, quello era il tempo in cui si viveva. E un ragazzo ingenuo come me ne subiva il fascino e volentieri si lasciava trasportare. Così, i primi 2 anni di guerra, finché le cose andavano bene, la gente era entusiasta. I bollettini di guerra davano notizie di grandi successi, in mare e in terra. In Africa avevamo perso l'Etiopia, ma l'insuccesso era stato coperto dal buon andamento della campagna di Libia, dove, dopo una ritirata in Cirenaica, la controffensiva aveva portato le truppe dell'asse a riconquistare Tobruk e ad avanzare fino in territorio egiziano. Si parlava di arrivare in poco tempo fino ad Alessandria, assieme all'Africa Corps del magico maresciallo Rommel, la volpe del deserto. Questi fatti avevano portato alle stelle l'entusiasmo e sembravano avvicinare la vittoria che sembrava ormai a portata di mano. Ricordo ancora un film documentario dei primi 2 anni di guerra. Era un susseguirsi di successi ed imprese epiche ad opera dei nostri soldati su tutti i fronti. A pensarci adesso c'erano anche le disgrazie che si potevano vedere, ma l'età e l'entusiasmo e la propaganda coprivano tutto. Più tardi arrivarono i rovesci, il Alemein, la ritirata di Russia, la perdita dell'Africa settentrionale dopo lo sbarco in Marocco degli americani che erano entrati in guerra, i bombardamenti delle città, lo sfollamento delle popolazioni, fu un rosario continuo. Nel 1943 gli americani sbarcarono in Sicilia. In estate con la famiglia ero in montagna presso uno zio e un giorno vedemmo passare squadriglie di bombardieri all'incirca lungo la valle dell'Adige. Poi sentimmo rimbombi di esplosioni, prima in direzione di Trento, poi di Bolzano. Era il 2 settembre ed era il primo bombardamento sulle due città. In quei giorni i genitori erano a Bolzano, papà era stato operato e la mamma lo assisteva. Noi eravamo in ansia, il telefono non c'era e non avevamo notizie per qualche giorno, finché tornarono e ci raccontarono cosa era successo. Così, toccato da vicino, cominciai a capire cosa voleva dire la guerra. Era finito il tempo dell'entusiasmo e della spensieratezza. E venne l'8 settembre. Sapemmo solo in seguito quale caos fu. Il termine trentino e il ribaltone fu drammaticamente vero. L'esercito italiano, vergognosamente lasciato senza comandi, si dissolse e le truppe tedesche occuparono l'Italia. Un bellissimo film, Tutti a casa, girato parecchi anni dopo, interpretò magistralmente la situazione e lo spirito di quei giorni. Anche in paese, qualche sera dopo, passarono alcuni soldati sbandati e spaventati, perché in paese avevano sentito parlare tedesco. Li aiutammo e li rassicurammo. Da lì in avanti avrebbero sentito parlare solo italiano. Così proseguirono in direzione di Trento, verso il sud, verso casa. Pochi giorni dopo ci trasferimmo a Predazzo, in casa dei nonni, perché la casa Bolzano era stata colpita ed era inabitabile. Cominciò così il mio periodo di sfollato, che durò 2 anni, durante i quali frequentai i primi anni di scuole medie. La guerra si faceva sentire, le ristrettezze aumentavano, perché molte cose non si trovavano più, ma la fame non la soffrimmo. Con un po' di campagna da coltivare, 3 capre in stalla, il necessario non mancava, e uno zio fornaio che lavorava per i militari, qualche pezzo di pane oltre la tessera ce lo rimediava. Questi furono gli unici disagi che mi procurò la guerra. I soldati tedeschi di guarnigione non interferivano con la vita civile, facevano le loro manovre o andavano a fare rastrellamenti nelle valli del Bellunese, dove agivano i partigiani, ma coi civili del paese non ci furono screzi. Passavano in cielo formazioni di aerei americani e la gente stava tranquillamente in strada a commentare. Si diceva che andassero a bombardare i ponti della linea del Brennero e fino in Germania. In paese non successe molto in quei 2 anni, ad eccezione di 2 incursioni notturne del famoso aereo Pippo e di un mitragliamento diurno di un camion, ma evidentemente la zona era poco attraente per queste scorrerie e tutto finì lì. Nella primavera del 45 la guerra stava finendo, passavano molti reparti in ritirata e da noi non successe niente. In un paese vicino, Molina di Fiemme, qualcuno si arrischiò a contrastare con le armi un reparto in ritirata, dimenticando il famoso detto «a nemico che fugge, ponti d'oro». I soldati tedeschi spararono all'impazzata senza andare per il sottile e poi incendiarono una parte del paese e se ne andarono lasciando la popolazione a piangere alcuni morti e a meditare sulla sciocchezza compiuta da alcuni sprovveduti che avevano stuzzicato un cane ancora pericoloso. Pochi giorni dopo la guerra, che era durata 5 anni, finì. Per me non era stata né epica né eroica, ma fu un sollievo lo stesso. Il 4 maggio arrivarono gli americani, accolti dal suono a distesa delle campane, che tornarono a farsi sentire dopo anni di silenzio imposto dalle autorità. Era una giornata fredda dopo 2 giorni di pioggia. La gente era in strada ad osservare curiosa, ma non ci furono grandi scene di giubilo. I soldati erano infreddoliti, con una coperta sulle spalle, stavano sui camion e salutavano sorridendo. Era una colonna lunghissima che scendeva da Passorolle, jeep con antenne lunghissime per le comunicazioni, camion 3 assi con i soldati, carri armati con la stella bianca. Sfilarono per tutta la mattinata, fecero una breve sosta per un piccolo incidente e poi proseguirono. La gente guardava meravigliata questi soldati, così diversi da quelli cui erano abituati. Divise diverse di colore, marron bruno, elmetto leggero in fibra come copricapo, stivaletti con suola di gomma e gambaletto, poco marziali per come eravamo abituati agli scarponi ferrati degli inglesi e dei tedeschi. Le macchine poi, le jeep, quei trabicoli che facevano tutti i servizi quando il nostro esercito usava ancora le carrette coi muli, camion 3 assi, carri armati a non finire e grossi e non avevano mai visto prima, e pensare che volevamo vincere la guerra. I soldati, che poi rimasero di guarnigione, erano simpatici alla mano, ma erano quanto di meno militaresco avessimo mai visto. Ogni tanto ci regalavano una tavoletta di cioccolata o una gomma da masticare, che noi, storpiando la parola americana, chiamavamo ciunga. Dopo il rancio, un soldato usciva con un pentolone con cacao o caffè che era avanzato e lo distribuiva a chi lo voleva. Noi ragazzi facevamo la coda col pentolino per averne un po'. Non era molto dignitoso per noi che non avevamo sofferto la fame, ma io l'ultimo cacao l'avevo bevuto nel 1939, che c'era stato offerto dopo la prima comunione dall'Opera Nazionale Balilla. Idem i grandi col caffè, che lo avevano bevuto prima della guerra come una medicina. Erano prelibatezze. Poco dopo le novità non furono più tali, la vita era ripresa regolarmente e così la famiglia poté riunirsi a Bolzano, dove ripresi e terminai le scuole nel 1952. Era cominciata un'altra storia. Ma questa è la mia copia personale. Ah, basta, allora non discuto. Dunque adesso, aspetta che metto gli occhiali perché altrimenti una cosa, il ritorno di mio padre Alessandra. Sono molto ricordi di guerra. Vabbè, insomma, è tornato tuo papà dalla guerra, è anche tornato da... Ecco. Il ritorno di mio padre dalla guerra. Quando scoppiò la guerra, la mia famiglia abitava a Padova, nei pressi della stazione, ed il nonno materno ci fece trasferire tutti in un paesino vicino per il timore, che poi si rivelò fondato, dei bombardamenti che infatti colpirono fra le tante anche la nostra abitazione. Io trascorsi i primi 3 anni della mia vita in campagna, attorniata dai nonni, zii e zie, e naturalmente con mia madre, che spesso mi mostrava la foto di un bel giovane dagli occhi tristi con un cappello da alpino in testa. Questo è papà, mi diceva, guarda com'è bello, presto tornerà fra noi e tu lo potrai conoscere. Non so da quando cominciai a ricordare quelle parole della mamma e ad osservare incuriosita quel bel giovane vestito da soldato. Forse nella primavera del 45, verso i 2 anni di età, ma di questo non ho certezza. Ciò che invece ricordo con precisione è il ritorno di mio padre nel dicembre del 45, ritorno che per me fu un trauma. Fino ad allora ero stata abituata a dormire con la mamma. Ricordo che le accarezzavo la gola, che sentivo tanto morbida, mentre lei mi raccontava le favole di Biancaneve e Cappuccetto Rosso per farmi addormentare dolcemente. Al ritorno di mio padre fui improvvisamente strappata dal lettone della mamma e trasferita in quello di una zia, in una grande stanza che avvertivo fredda ed umida, e cominciai ad odiare quell'uomo che mi aveva depredato delle mie dolci abitudini. Non era nemmeno bello come nella fotografia, pallido, magro e demaciato, parlava pochissimo e non sembrava nemmeno tanto interessato a me. Ma è questo il mio papà? Mi chiedevo nella mia piccola mente. Non potevo nemmeno immaginare cosa fosse la guerra e i traumi a cui l'idiozia umana può sottoporre i suoi figli migliori. Io sapevo soltanto che un uomo dormiva con mia mamma, che forse le accarezzava la gola e chissà cos'altro poteva accadere in quella stanza che a me sembrava diventata proibita e piena di indefinibili ombre. È incredibile come il non ancora chiaro e decifrabile concetto di sessualità alberghi già nella mente dei piccoli. Ricordo che tutte le parolacce che avevo sentito pronunciare in campagna dei contadini e che avevo ben memorizzato, io le rivolgevo mentalmente a quell'intruso che era diventato il centro dell'attenzione e dell'affettuosità da parte di tutti. Quando lo vedevo cingere la vita della mamma ed accostarla a sé, chiudevo gli occhi per non vedere e uscivo in cortile. Un forte sentimento di rabbia che andava oltre la normale gelosia mi invadeva il cuore e alla mia tenerissima età, avevo solo 2 anni e mezzo, sentivo il peso di non avere strumenti per ribellarmi. Trascorsero poco più di 2 anni da quel ritorno, tornammo tutti a Padova. Io cominciavo a crescere e mio padre, piano piano, tornato alla pace, rifocillato, circondato dall'amore della famiglia e degli amici, ritrovò se stesso e ritornò bello come nella fotografia. Cominciò ad amarmi sempre di più, mi prendeva in braccio, canticchiava per me canzoni che non ho più scordato e mi mostrava gli amici con grande orgoglio. Questa è la mia piccola principessa, diceva. Io e lei faremo grandi cose insieme e non ci lasceremo mai più. E anch'io imparai ad amarlo, tanto, e fu così per tutta la vita. Quando sento parlare della guerra, che è, rimane la più tragica espressione della malvagità e dell'idiozia umana, quando sento quante famiglie sono state derubate della vita dei loro cari, mi ritengo fortunata. Ma non posso dimenticare che anche a me la guerra ha rubato molto. Un breve ma importantissimo tratto di vita con mio padre, in cui avremmo avuto il diritto di conoscerci ed amarci, e sento nel profondo del cuore il rimorso per averlo odiato quando ancora non potevo capire che la malvagità umana talvolta sconvolge i sentimenti e turba i delicati equilibri degli affetti. Bisogna saper aspettare. Ricordi di guerra adesso di Ingarrone. Ha perso lo scrittore. Ricordi della Seconda Guerra Mondiale. 10 giugno 1940. Come dimenticare quel giorno? Ero da poco arrivato a Saltre, piccolo paese sul confine svizzero, in provincia di Varese. Mi accingevo a trascorrere le mie vacanze estive nella grande dimora dei miei nonni paterni. Quel pomeriggio mi stavo avviando alla piazza del paese. Erano circa le 18 quando, passando davanti al circolo culturale, udì la voce stentorea di Mussolini che l'altoparlante a pieno volume diffondeva. Era una dichiarazione di guerra. Quando giunsi all'arengo del paese, capannelli di gente commentava la notizia che aveva colpito tutti in modo traumatico. Io tornai a casa e anche qui trovai il medesimo attonito disagio. Avevo appena compiuto 9 anni ed ancora non avevo la percezione di quanto era accaduto. La guerra l'avevo vissuta, tra virgolette, al cinema o attraverso quanto il nonno mi aveva raccontato di quella del 15-18, che lui aveva trascorso in prima linea. Il nostro esercito ebbe i primi contatti in Francia, poi vennero l'Albania e la Grecia. Giunse il mese di ottobre, le scuole iniziarono e tutto sembrava rientrato nella normalità. Ma purtroppo non era così. Iniziò il tempo del razionamento, con le tessere nonnarie, per cui ognuno aveva diritto a ciò che gli era strettamente necessario. Di pari passo arrivò la borsa nera, che poteva dare qualcosa in più, ma illegalmente, con i prezzi alterati in modo vistoso. Io nacqui in via Procaccini, in un'arteria molto larga e lunga circa 1 chilometro, che congiungeva Corso Sempione con il cimitero monumentale. Dal balcone di casa mia molti reggimenti e battaglioni che marciavano dalle caserme e raggiungevano la stazione centrale per poi partire verso i vari fronti di guerra. Il pubblico li accompagnava unendosi ai loro canti e al loro inconsapevole entusiasmo. A Milano, mi ero scordato di dirlo, iniziarono a suonare le sirene per gli allarmi aerei e fortunatamente non vi furono bombardamenti. Ma il 24 ottobre del 1942 arrivarono anche questi. Era un sabato sera. Alle 18 furono colpiti vari quartieri ed uno stabile vicino a casa mia fu colpito. E tra le vittime vi fu anche una nostra conoscente. Purtroppo fu solo l'inizio. Infatti il 14 febbraio 1943, di notte, un secondo e non ultimo, ne seguì un altro, che purtroppo colpì il nostro edificio, con bombe incendiarie devastando solai, il quinto piano ed in parte il quarto, cioè il nostro appartamento. Non potrò mai dimenticare quanto vidi entrando quando fu domato l'incendio. Questo evento determinò lo sfollamento mio e di mia sorella, che mio padre decise il giorno dopo. Entrambi andammo a Saltro nella villa dei nonni. Io non andai a scuola per circa un mese e poi frequentai la prima media a Varese sino al termine della seconda. Il terzo anno lo chiuse nella mia Milano. Tornando indietro, subito dopo quel 14 febbraio, i bombardamenti furono più frequenti e massicci. Ricordo quello del 7 agosto, del 12 e 13, del 14 e 15 e del 15 e 16 dello stesso mese. Molto più tardi seppi, a seguito di questi eventi, furono colpiti il 50% degli stabili, i senza tetto 500.000, gli sfollati attorno a 250.000. Nell'incursione del 7-8 vennero abbattuti dalla contrada 2 apparecchi. Nella successiva, la mia città fu sorvolata da 504 aerei bombardieri. Apocalittico pensare a una cosa così, che sganciarono 200.000 tonnellate di bombe dirompenti e 380.000 spezzoni incendiari. Nella terza ondata di agosto furono colpiti la Scala, il Duomo e l'Archivio Comunale di Milano. Milano era in ginocchio. I militari erano impegnati nel recupero vittime e sgombero macerie. Mio padre stesso, che era sergente del 3° Bersagliere, con reparti di soldati fu impegnato per alcune settimane al recupero delle vittime successivamente allo sgombero delle macerie. Mi raccontò molti episodi relativi al recupero vittime che mi lasciarono sgomento. Lui non voleva raccontare, ma la mia curiosità di bambino fu più forte. Anche se poi rimasi scosso per lungo tempo, ed ancora oggi a volte rivivo quei momenti. Certe cose non si possono dimenticare. Si arrivò l'8 settembre, alla firma dell'armistizio, e Mussolini, il 24 novembre, diede vita alla Repubblica Sociale Italiana. Qualche giorno dopo mio padre lasciò l'Italia per entrare in Svizzera, come internato. Il confine gli sta un chilometro dall'abitazione dei nonni, ed egli, con alcuni amici e commilitoni, varcò tale confine. Papà in paese era quasi considerato indigeno, in quanto aveva trascorso molta parte della sua gioventù al paese. Per alcuni giorni andò in campo di concentramento, poi come lavoratore a Langheta in una fabbrica di stufe. Alcune settimane dopo, per la sua esperienza, fu mandato a Baden in una smalteria. Io, la mamma ed il nonno rimanemmo a Milano. Io frequentavo la scuola, mentre la mamma e il nonno con alcuni operai continuavano in modo molto ridotto l'attività della ditta. Con papà si era in contatto tramite lettere che potevamo avere servendoci di coloro che fino a qualche tempo prima esercitava il contrabbando di sigarette. Il ricordo di Milano in quei giorni era triste e cupo, colmo di nostalgia. Giravano ragazzine che avevano la mia età, o poco più, in divisa grigio verde con camicia nera e basco, armate con moschetto o mitra, che era dall'ombra unire lì al Parco Sempione un gruppetto di tali personaggi che con le armi rivolte verso il cielo sparavano allegramente gridando a squarciagola e ridendo più non posso. Io devo dire onestamente che passando all'alto di quella ciurmaglia ero molto impaurito. Arrivammo al 25 aprile, il giorno della liberazione, e dalla gioia per la fine di quel periodo si videro scene di violenza e di vendette atroci da parte di coloro che avevano subito a loro volta dei torti o vere e proprie vessazioni. Raramente un codazzo di persone che trascinavano una persona legata per le mani e la stavano portando all'arena per essere fucilata. Uno spettacolo tragico. Nei giardinetti vicino alla mia scuola elementare vidi gruppi di partigiani che portavano via due corpi, un uomo e una donna. Lui era Osvaldo Valenti, lei Luisa Ferina, due attori che avevano seguito gli ultimi dettami della Repubblica di Salò. Valenti infatti era un ufficiale della decima MAS e come tale subì un giudizio sommario. Vi fu poi quella macabra scena dei corpi appesi a testa in giù in piazzale Loreto, dove la folla oceanica inneggiava tale spettacolo. Fra l'altro io ebbi la triste occasione di vedere scaricare dall'autocarro tutti i corpi di codeste persone. Mi trovavo col nonno al cimitero di Musocco per un funerale. Avevano ovviamente la rigidità della morte, i vestiti di volto erano cosparsi di sangue rappreso. Le tribolazioni, le ansie, le paure della guerra erano finite. Col tempo si sarebbero dimenticate. In parte io attendevo il rientro di mio padre, infatti verso la fine di luglio rientrò e ci riunimo. Ora ci accendeva quella che fu chiamata la ricostruzione. Sono bravissimi, vero? Bravissimi. Gabriella Fabris, seduta in piedi. Mi siedo perché sono troppo alta. Io non ho scritto niente sulla guerra, ma ho voluto scrivere un qualche cosa per ricordare la Shoah, che è stata una guerra terribile. Ricordando la Shoah, sulla scena della vita, da sempre, dalla comparsa dell'uomo sulla terra e nello scorrere del tempo, si è rivelata difficile la convivenza, il rapporto tra gli uomini, tanto che l'intolleranza, i contrasti e le invidie che si sono venuti a creare furono e sono causa di terribili delitti e crimini. Da allora la storia sembra che non abbia insegnato nulla o poco. Il male ci perseguita, l'incapacità degli uomini a dominarlo è debole, tanto che a volte ci lascia attoniti, confusi e increduli a tanta crudeltà. Allora, Signore, a Te mi rivolgo, a Te che sei l'Onnipotente e Padre dell'umanità, chiedo. Se nessuno sapeva dove portavano quei treni gremiti di umanità calpestata, e come potevano prendere sonno uomini e donne malvagi dopo aver massacrato tanti innocenti inermi. Chiedo se l'eco di un crimine atroce e spregevole come l'omicidio di bambini tu non l'hai ascoltato e non ti sei commosso. E come fa un carnefice che violenta e tortura un bambino ad accarezzare e guardare negli occhi suo figlio? Chiedo, se non hai volto lo sguardo verso terra e non hai visto la sofferenza di vecchie famiglie sradicati con tanta violenza dal loro viver quotidiano? Chiedo, come fa uno stupratore di ragazzine a pensare con tenerezza e rispetto a mogli e figli o madri senza sentire il rifiuto ed il disgusto di chi teneva il suo soggetto usa e getta. Chiedo come mai l'uomo, creato a tua immagine e somiglianza, permetti che deturpi il tuo volto con azioni di orrore e di follia atroce. chiedo perché esiste l'odio, che è la stupidità più grande che l'uomo coltivi nel suo cuore. E com'è il cuore di un assassino indifferente al dolore delle sue vittime? Chiedo se puoi farmi trovare una ragione a quel grido di dolore salito al cielo e non aver posto fine a tanta sofferenza e a tanta mattanza, perché non trovo giustificazione ad un comportamento non degno dell'uomo. Io non trovo risposta. Se vuoi, illuminami. Solo la tua parola può consolare da tali orrori. Solo la tua parola può aiutare e guarire da tanta violenza irrazionale. Bene. Per cortesia, Rosalba Giustarini. Opla. Allora, nel periodo della guerra ricordo che dopo il primo bombardamento nella mia città sfollai in un piccolo borgo del Chianti, poche case, una piazzetta e tutto intorno il verde dei boschi. Con l'incoscienza dell'età non mi rendevo conto del triste periodo che stavamo vivendo. Guardavo con curiosità, ma senza paura, gli aerei che sorvolavano la zona per andare a sganciare altrove le loro bombe. Non pensavo alle distruzioni, alle morti, al dolore di tante famiglie. Purtroppo però arrivò in quel piccolo borgo, anche per me bambina, la paura e la consapevolezza di vivere un periodo estremamente terribile. Incominciarono ad arrivare le prime cannonate che costrinsero tutti noi ad abbandonare la casa e a rifugiarci in una cantina, buia ed umida, dove avevamo portato materassi, coperte e il poco cibo che ci rimaneva. Ma il peggio doveva ancora venire, e questo accadde quando le truppe tedesche, durante la loro ritirata, arrivarono in quella zona dove iniziarono con molta ferocia i loro rastrellamenti. Nei boschi circostanti si udivano gli spari e le urla strazianti degli uomini che cercavano disperatamente di scappare. A questo si aggiungeva il pianto e il dolore delle mogli e delle madri che capivano a quale orribile destino sarebbero andati incontro i loro cari. Finalmente a poco tutto finì e dopo l'arrivo delle truppe alleate potemmo tornare nella nostra casa in città. Un brutto ricordo di quest'ultimo giorno fu la visione di un cavallo che giaceva immobile dentro un piccolo recinto all'aperto vicino al borgo. Era stato colpito da una scheggia di granata e la visione di quel corpo straziato, ricoperto da sciami di mosche, non l'ho più potuta cancellare dalla mia memoria. Felice di poter tornare nella mia casa, uscii subito del giardino per salutare Ferruccio, un bambino ebreo, mio carissimo amico di giochi. Bussai alla sua porta, ma nessuno mi rispose. Bussai di nuovo anche nei giorni seguenti, ma non ebbi nessuna risposta. Mia madre mi disse che forse doveva ancora tornare, o forse aveva cambiato abitazione. Era vero, la nuova abitazione sua e di tutta la sua famiglia era un lager. Grazie. Maria Todesco. Te l'ho portata via io? Anch'io sono troppo giovane per avere ricordi di guerra, però ho ritrovato questo scritto che avevo fatto per la Marta. 27 gennaio 2009. Televisioni, radio e giornali parlano dell'Olocausto. Oggi è il giorno della memoria. Mi soffermo volentieri ad ascoltare i servizi che vengono trasmessi e che hanno protagonisti coloro che hanno vissuto in prima persona quelle atrocità. Nonostante questo, ci sono persone che ancora negano l'esistenza stessa dell'Olocausto. 10 anni sono trascorsi dal viaggio studio che mi portò a visitare il campo di lavoro di Buchenwald, ma è tutto così vivo nella mia memoria che mi sembra di esserci stata appena ieri, anzi, oggi. Il pullman viaggia su una strada che porta in collina ai lati boschi di paggi che danno il nome alla località. La giornata è grigia, le nuvole basse. I giunti, dove probabilmente passano gli scoli dell'acqua piovana, provocano al passaggio del mezzo un rumore sordo e cadenzato come un battito di cuore. Tum, tum, tum. Mi fa pensare al battito del cuore di quei poveretti che vennero presi e portati qui contro la loro volontà, senza sapere perché. Tum, tum, tum. Finalmente arriviamo al campo di lavoro di Buchenwald. Scendiamo in silenzio. L'unico rumore sono i nostri passi sulla ghiaia della strada che è costeggiata da un minaccioso filo spinato. Sopra il cancello di ferro c'è una scritta. Gottmi mit uns, credo. Non la ricordo bene, perché nella mia mente si illuminò questa frase. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'antico dolore. Lasciate ogni speranza voi che entrate. La guida, un donone in divisa con le trecce bionde raccolte, ci spiega rigorosamente in tedesco che il giro inizierà dal complesso originale per terminare nella costruzione nuova che raccoglie testimonianze e reperti. L'infermeria è il primo locale che incontriamo e che incontrarono anche gli ospiti. Qui venivano visitati, pesati, misurati, studiati e a volte, se non rientravano nei parametri richiesti, uccisi con un proiettile alla nuca sparato da un'apertura nel muro dove c'era il misuratore dell'altezza. Passiamo tra i cunicoli, corridoi, celle. C'è un odore strano, forse è la mia impressione, mi vengono i brividi, forse è l'odore della paura di cui questi muri sono stati testimoni. Poi arriviamo al crematorio, un grande ambiente dove campeggiano alcuni forni con le bocche oscenamente spalancate. Da una finestra scende uno scivolo che serviva per il carbone e forse per far scendere più in fretta i corpi. Quando questi erano troppi, venivano appesi alle pareti a grossi ganci da macelleria, in attesa di passare per un cammino. L'emozione di tutti è palpabile. È palpabile. Allora Gabriella propone di recitare il Padre Nostro per onorare la memoria di tutte quelle vittime innocenti. Ci prendiamo per mano e tutti insieme, 50 voci, preghiamo. Al termine qualcuno piange, altri nascondono la loro commozione riprendendo il cammino. Per andare al mausoleo passiamo per la spianata, tra le nuvole basso d'autunno si intravede solo in parte l'ampiezza del campo. Le baracche furono tutte smontate al termine della guerra, ma sono rimasti i basamenti di cemento a testimoniare la loro esistenza. Un carro che serviva nel duro lavoro del campo a trasportare le pietre giace lì abbandonato, solitario. Il mausoleo è un edificio recente, contiene tante, tantissime testimonianze del passaggio degli ebrei, zingari e comunisti. Ci vengono incontro le gigantografie di visi di uomini, donne e giovani, con grandi occhi spalancati su un orrore che noi non possiamo certo immaginare fino in fondo. Volti magri, distorti dalla sofferenza, vestiti, si fa per dire, con la divisa a righe, barbe incolte, ma tutti molto fieri. In un angolo una montagna di scarpe. Nelle vetrinette gli oggetti che erano loro appartenuti e probabilmente sequestrati al loro arrivo. C'è di tutto, dai rasoi ai libri, agli strumenti musicali, agli articoli da scrittura, calimai e penne, e qualche foglio ingiallito con dati personali, altri con poesie. Tutto sta a dire che quelli erano uomini e donne come noi. E ti chiedi perché sia potuto accadere tutto questo. Non lo capisci e ti senti disorientata, pensando che c'è ancora qualcuno che nega che tutto ciò sia successo. Altri che pensano che sia una maniera forte, ma giusta, per risolvere problemi di ordine pubblico o altro. Ci aggiriamo tra quelle testimonianze per un bel po'. Ma è giunta l'ora di chiusura e la soldatessa teutonica ci accompagna fermamente all'uscita. Varchiamo quella soglia portando in noi tutte quelle sensazioni che non ci lasceranno più. Il cuore pesante per la tristezza. Alzo gli occhi al cielo, chiedo a Dio di aiutarci ad evitare il ripetersi di queste crudeltà. E come Dante il suo maestro, uscimmo a rivedere le stelle. Io non so se sia arrivato Flavio Zanella. No. Allora la sediamo. E se vuoi leggere la poesia di Galassini, per cortesia. Abbiamo la lettrice ufficiale di cui è bravissima, perché ci devo fare la voce da uomo, però non ha importanza, non ha importanza. Allora, se no, non credo. Guerra e pace. La guerra, l'ingiustizia, la povertà, la fame, la discriminazione e ogni forma di violenza sui più deboli e tutti i crimini contro la persona sono fatti così gravi ed inconcepibili da offendere la dignità di ogni individuo mentalmente sano. Shoah è una parola troppo elegante per esprimere tutta la sofferenza che racchiude. Vivo queste atrocità e partecipo in ogni momento al dolore di questa umanità senza voce, vergognandomi d'essere uomo. I monumenti del periodo fascista sono certamente la prova di un passato la cui ideologia ha creato orrori che il tempo diluisce ma non cancella. Il giudizio storico di un'anime condanna ci autorizza però a credere che gli stessi monumenti siano oggi un monito per tutti a non ripetere gli errori ed una testimonianza di quanto sbagliato fossero le ideologie che li hanno voluti. Mi preoccupa chi vuole ad ogni costo la loro eliminazione. Non riconosco in questo progetto una ricerca di giustizia né di riappacificazione. Temo piuttosto che si voglia continuare in una logica di stupidità, di prevaricazione e di odio, di cui i cosiddetti relitti fascisti sono la testimonianza. Per questo danno ancora fastidio a qualcuno. Una pietra e una rosa. Di Marco De Chiusi. Era da Dio. Ero piccola e in occasione della ricorrenza del 2 novembre, tenuta per mano dal mio papà, dopo aver sistemato la tomba di famiglia. Ma non so se si è spento. Ah, non so mica. Ma? Ah, bellissimo, grazie. Allora, ero piccola e in occasione della ricorrenza del 2 novembre, tenuta per mano da mio papà, dopo aver sistemato la tomba di famiglia nel cimitero di Arco, tornammo a visitare anche la tomba di un suo amico, il dottor Kaufman, un medico ebreo morto lentissimo in un sanatorio dopo aver scampato agli orrori di un campo di sterminio. Io, incuriosita, chiedevo notizie su quanto doveva essere accaduto a questa persona che non avevo mai conosciuto e per la quale papà si commuoveva. Ma lui non mi ha mai voluto raccontare la sua storia, tirava invece un gran sospiro e alle mie domande rispondeva con aria triste e consapevole, da grande capirai tante cose. Seguiva un lungo, commosso silenzio. Su quella lapide, che adesso non c'è più, mettevamo un affetto, una pietra e una rosa. E così sono diventata grande e ho capito tante cose, troppe cose, e ho collegato fatti che prima si presentavano come momenti su cui si sospendeva il discorso e si taceva molto miti. Durante il secondo anno di università sono stata invitata a seguire per più giorni, per motivi di studio, una serie di filmati, di testimonianze dirette ed una mostra di oggetti, documenti e di reperti sugli orrori di quello che ancora veniva chiamato l'Olocausto. Vi ho visto e saputo quelli che tutto dovrebbero vedere e sapere e che mai avrebbero dovuto sapere e vedere. E da allora ho perso la pace. Mi bastano niente perché ritorno le immagini che a quel tempo mi hanno fatto perdere il sonno e girovagare per Padova come se il commemorare l'errore senza fine dovesse aiutarmi a smaltire una pena e un orrore che mi sembravano impossibili e ai limiti dell'immaginabile. Sono nata troppo tardi per prendere allora come ora una posizione a favore del popolo di Israele. Sono nata troppo tardi per mostrare la mia indignazione, per schierarmi dalla loro parte, per difendere assieme a loro la mia dignità di persona il mio senso dell'uomo e della libertà di ciascuno. Ho però da allora sentito il bisogno, il dovere di riscattare il rispetto che ho di me stessa e delle persone che mi circondano così come posso, a modo mio, studiando la loro storia, la loro cultura e leggendo con attenzione a voi il loro libro, il libro per eccellenza. È come se sentissi il bisogno di essere perdonata di colpe non mie, ma che pesano sulla mia coscienza e sulla nostra civiltà occidentale. Io non sono più riuscita a sentirmi innocente e non mi sono mai chiesta, come fanno molti, dove fosse allora Dio, ma mi chiedo invece dove fossero gli uomini, quelli che sapevano, che potevano opporsi e che invece hanno girato la testa per interesse, per paura o per vigliaccheria. Adesso, sempre a modo mio, seguo il popolo di Israele nel suo eterno andare, sapendo che non potrò mai appartenere alla loro gente, ma sapendo anche che loro non potranno mai impedirmi di seguirli e di accompagnarli con stupore e ammirazione. E per quelli che non ci sono più, che ci sono stati tolti nei modi più brutali e disumani e a cui mi sento vicina, ci sarà sempre nel mio cuore una pietra e una rosa. E adesso, se mi permettete, riprendo soltanto una cosa che avevo già detto l'anno scorso, ma che mi sembra doveroso di ridire quest'anno. Una lettera non spedita. Io ho un privilegio grande. Un privilegio grande ed è quello di avervi incontrati, questo lo dedico a voi, di poter passare qualche ora con voi, di potervi ascoltare, di essere ascoltata. Il vostro è un dono impagabile. Attraverso i vostri scritti mi avete messo e mi mettete a parte dei vostri pensieri, del vostro mondo passato, dei sogni per il futuro, delle gioie e dei dolori che inevitabilmente ci accompagnano. Con serenità e fiducia mi avete permesso di entrare a far parte della vostra vita. Le avete condivise e tutti noi, per merito vostro, abbiamo imparato a conoscerci, a rispettare la diversità, a sentire il piacere e il bisogno di stare insieme. Grazie per tutto questo e per la serenità che mi regalate. Grazie per aver saputo creare un clima che va al di là di ogni convenzione. Grazie per avermi confermato qualcosa in cui ho sempre creduto, cioè che gli affetti, quelli veri, hanno dimora in un non luogo e che questo che per questo abitano dovunque, anche e soprattutto qui con voi. Grazie di tutto. Con questo concludiamo la nostra serata, grazie infinite, grazie alla dottoressa Trevisan che l'ha organizzata, grazie per la sua ospitalità sempre affettuosa, cordialissima e intelligente. Grazie a voi che ci siete stati, grazie a tutti gli ospiti che hanno voluto ascoltare, i miei amici. Grazie. Io volevo fare un'osservazione che ci è venuta spontanea con Karin. Prima ascoltando le vostre testimonianze ci facciamo complimenti perché sono bellissime, interessantissime e anche toccanti. C'è una differenza fra il ricordo femminile e quello maschile? Esiste secondo lei e in che termini? C'è forse un modo, una sensibilità diversa nell'affrontare le cose, un fermarsi su particolari diversi. Un ricordare forse più episodi che riguardano la persona che non gli oggetti o le cose circostanti, no? Noi ci fermiamo più sulle cose che toccano gli affetti, questo anche gli uomini, non, però sono così mescolate le due cose che è difficile forse definirle. Ma noi che non conosciamo direttamente le persone, perché l'abbiamo ascoltata in una maniera diversa, no? Rispetto appunto a questo legame che c'è tra di voi, che è evidente anche dalla conclusione della serata, di questa lettera, ecco, che lei ha scritto, è vero, cari, posso anche dirlo, cioè l'impressione che abbiamo avuto è stata che comunque c'è una differenza nel ricordare, nel riportare un ricordo, perché il coinvolgimento c'è chiaramente anche a livello emotivo da parte sia di chi ricorda, se un uomo o una donna, però ci sono delle sensazioni espresse in una maniera e in alcuni casi invece sono più quantificate, ecco. C'è un dettaglio, una volta per il dettaglio, anche con delle informazioni, ecco, che erano utilissime, che magari non erano, di cui non si era a conoscenza, e con anche la necessità di richiamo e firma ad altre cose che appartengono al collettivo, alla memoria collettiva, però ecco, in alcuni casi alcune signore hanno proprio reso palpabile tutta un'emozione, una siamo sensazione. Di pancia. Sì, quindi a volte si può dire che c'è un'esperienza. È una differenza anche nel ricordare, anche nel cogliere i particolari, no? Noi cogliamo i particolari che riguardano l'affettività, forse, e gli uomini, la quantità. È già diverso, non è già sentito. Le cose, peso, non le cose. Sì, sì. Le donne più sentimenti. Sì, sì. Di bombardieri, sì. No, tonnellate di polvere da sparo, che è bellissimo, impressionante. Incendi e cose che di devastazione. Invece noi quello che riguarda, sì, più che altro il particolare, sì, l'affettivo, sì. Ecco. Però va benissimo così, cioè si armonizza dal tuo cuore. No, ma sono spettacolari. Grazie mille, noi lo mettiamo sul podcasting della biblioteca, per cui chi ha piacere riascoltare, risentirsi o farlo ascoltare a qualcuno che non ha potuto partecipare a questa bella serata, sul nostro sito della biblioteca trovate poi la possibilità di scaricarlo tra qualche giorno, questo file audio. Grazie mille, siete stati gentilissimi, compatissimi come sempre.